Penso che tutti voi sappiate che la diocesi di Milano ha un suo rito, il rito ambrosiano, però all'interno della stessa diocesi c'è una certa fetta, non piccola, che ha il rito romano. Non stiamo a discutere perché e per come. Per esempio il paese confinante con noi è già di rito romano. Per cui io mi trovo coi sacerdoti e si ragiona, no? E si fa anche un po' di campanilismo certe volte, ma il rito romano è migliore, l'ambrosiano è migliore. Ognuno ha la sua bellezza. Certamente, però, il rito ambrosiano ha una ricchezza di testi e anche di bellezza, non lo dico io, lo dicono gli studiosi, veramente grande. Per esempio oggi è Santa Agnese e per il rito ambrosiano c'è una liturgia ricchissima che in parte è stata composta addirittura da Sant'Ambrogio, pensate, che è morto nel 397 d.C., non 1397, il 397, quindi sono più di 1600 anni. Eppure ancora oggi noi sacerdoti recitiamo nel breviario un inno composto da lui, molto bello, e adesso io vi leggerò una pagina scritta da lui in un suo libro, che è stato il cantore della verginità consacrata, Sant'Ambrogio. Ha avuto anche una sorella in casa, Santa Marcellina, consacrata a Dio restando in casa. A quel tempo non c'erano le suore che andavano in convento, ma si consacravano chi aveva capito cosa vuol dire la verginità consacrata in casa. E perché si consacravano a Dio? Perché una ragazza desiderava fare della sua vita un servizio a Dio, non un servizio a un uomo, a un marito. Dice già San Paolo, chi è sposato cerca di piacere al marito, chi invece non è sposato cerca di piacere a Dio. E questo è il grande valore ancora della verginità anche ai giorni nostri, Vi leggo dunque qualcosa di questa pagina scritta direttamente da Sant'Ambrogio. In alcune parti è un pochettino ridondante, un pochettino, diciamo, ampollosa, però è bella. È il giorno natalizio per il cielo di una vergine. È il giorno natalizio di una martire. È il giorno natalizio di Santa Agnese. Si dice che subì il martirio a 12 anni, perché lei aveva incontrato il cristianesimo, si era sentita innamorare della persona di Gesù. Guardate che è bella questa parola, C'è ancora della gente, anche che si converte, leggevo una testimonianza di una ragazza convertita dall'induismo, da sola, contro la sua famiglia, perché è rimasta affascinata dalla persona di Gesù. C'è ancora gente capace di essere affascinata dalla persona di Gesù. E lei lo fu, e voleva consacrarsi a Gesù. Quando i suoi familiari le propongono di sposare un giovane patrizio ricco di Roma, lei rifiuta. Cercano di blandirla, di minacciarla. I genitori arrivano persino a denunciarla all'autorità imperiale. A quel tempo c'erano le persecuzioni, per farla schiodare dalla sua decisione. Lei no. E lei accetta di andare al martirio. I suoi genitori erano disperati, avevano usato questa arma per farla retrocedere, lei no, e lei va avanti. E lo stesso giudice dice, ma non vedi i tuoi genitori come sono disperati, cedi. E lei dice, no, ho promesso la mia fedeltà a uno sposo, sarei una traditrice se lo rinnegassi, e viene uccisa. Si dice che subì il martirio a 12 anni. Quanto è detestabile questa barbarie che non ha saputo risparmiare neppure un'età così tenera, ma certo assai più grande fu la forza della fede. Un corpo così minuscolo, continua Sant'Ambrogio, poteva forse offrire spazio ai colpi di una spada? Eppure, colei che sembrava inaccessibile alla spada ebbe tanta forza da vincerla. Le fanciulle sue coetanee tremano anche solo allo sguardo severo dei genitori ed escono in pianti e urla per piccole punture, come se avessero ricevuto chissà quali ferite. Agnese invece rimase impavida tra le mani dei carnefici tinte del suo sangue. Se ne sta salda sotto il peso delle catene, trascinata a viva forza all'altare degli dèi, innalza il suo trofeo al Signore vittorioso, mette il collo e le mani in ceppi di ferro, anche se erano così fine che non ci stavano dentro, si sfilavano dai ceppi di ferro. Nuovo genere di martirio. Non era ancora capace di subire tormenti, eppure era già matura per la vittoria. Una sposa novella non andrebbe così rapida alle nozze come questa vergine andò al luogo del supplizio, con il capo adorno non di corone nuziali, ma di Cristo, non di fiori, ma di nobile virtù. E poi va avanti così, no? A quali terribili minacce non ricorse il magistrato per spaventarla, a quali dolce lusinghe per convincerla. Qui non racconta tutto, l'hanno portata anche in un luogo di prostituzione per esporla, e Dio ha accecato quelli che volevano guardarla, che fissavano gli occhi su di lei. Li ha accecati mandando una luce meravigliosa su questa ragazzina. Essa diceva: è un'offesa allo sposo attendere un altro amante. Mi avrà lui che mi ha scelta per prima. Perisca il mio corpo che può essere desiderato e amato, ma io non lo voglio. Stette ferma, pregò, chinò la testa e le fu tagliata la testa. Avresti potuto vedere il carnefice trepidare come se il condannato fosse lui, tremante la destra del boia, mentre la fanciulla non temeva la propria vita. Rimase vergine e conseguì la palma del martirio. 1600 anni fa Sant'Ambrogio scriveva queste cose. Ambrogio di Milano fu il cantore della verginità. Una schiera di ragazze, si dice, venivano fin da Piacenza per consacrarsi nelle mani di Ambrogio. E c'era quasi i genitori che avevano paura di far sentire la voce di Ambrogio alle loro figlie, perché le incantava seguire il Signore. Oh Sant'Ambrogio, vieni ancora oggi, benedici la verginità consacrata delle suore, benedici la verginità consacrata di chi si consacra in casa e attira a te ragazze e donne che scelgano Dio invece di uno sposo terreno, e così sia.